niente, da 30 da 29 mila litri carichenti, e da non lo so qui. E l'aereo quando arriva la cisterna, ha dovuto mettere il carricheggio di cosa dentro, 2 litri nel carricheggio. Ho perso il dubbio, penso che scarichi un bel po' dalla botte. Non lo so, lui, quanto può essere l'aereo? Non l'ho mai chiesto. L'elicottero mi pare che sia, non è grosso come cisterna. Mi pare che sia da 200. Guarda, tu mi pare 150, 200, ma non me lo metto. Se non è piccolina, no, è grande come coso, come serbatoio. Per Paolo già lo stava facendo il rifornimento lui. Era lì, faceva queste manutenzioni, diciamo, le pulizie, cose dell'elicottero, no? Il gas, il rifornimento, queste cose così. E parcheggiavano, poi mettevano le ruote sotto, lo mettevano dentro, come si chiama, dentro sotto la coperta a volte. E mi aveva detto proprio di preciso cosa consumava a fare questo tratto, quanto c'entrava di... Mi aveva detto, aveva fatto i conti quanto costava in euro, mi cosa veniva a costare in euro pure. Adesso però non ho la mia idea cosa sia, però mi aveva detto una cosa esagerata, ma proprio una cosa a muoversi, a mettersi in volo questo elicottero, che doveva fare per forza ogni giorno questo giro, a mettersi in volo, a fare questo giro, ad arrivare qua a Trentino, a tornare nuovamente là, che ci impiegava 15 minuti, me lo ricordo ancora, da Olbia a qui a Ottava, perché veniva tardi qua dietro di casa mia dove c'era una specie di campo sportivo, no, faceva campo sportivo, arrivava e scendeva lì l'elicottero e allora se ne scendeva lì per Paolo, capito? Lui lo portava l'elicottero qua, mi diceva, se ne andava l'elicottero, scendeva l'elicottero, lo comprò, andava lì dietro, dove c'è il campo sportivo, dietro di casa, su in alto, mi. E scendeva lì l'elicottero, lo lasciava lì e da lì lo prendeva nuovamente, capito? Quando faceva la corsa che veniva qua a Trentino. È una bella cosa, l'ho visto dal vivo, ma è allucinante, tanto, molto molto bello. Questo è tutto grigio, è una società italiana, che fanno trasporti appunto così nelle isole, con gli elicotteri, capite? Vabbè, mi dico il 20° minuto, e già vuoi uscire. Cosa ti rimane di spicciolo alto? Davvero, bello, certo, ma sempre l'elicottero. Aspetta un attimino, no? Aspetta, 25, scusa un attimo, 200 litri sono... no, aspetta un attimino, sono 250 euro sono, ho sbagliato, mi sto... Sono 25 centesimi al minuto, in un'ora tanto ciò. E tu sei messo a litri non venda, vai. A litri non vendi. No, sono capo litri ci muoio sotto. Tu fai un'ora, ma fai 60 minuti, fai 60 per 25, e vedi quanto ti dà. Adesso non so che se quante ore lavora, ma mi ha detto che più di 4 ore non può lavorare per questioni appunto di pilota, non lo so, perché sono faticami, ho fatico a girare su Gojo, Gigi. 1500 euro sono, ho preso già la vada avanti, 1500 sono. Vabbè, mi ha detto lui, ma il calcolo era bello che fatto. Fate un conto, 25 centesimi al minuto. Io non so in quante ore, ma credo che l'abbia fatto in 4 ore. In 4 ore hai fatto tu? No, sono in 60, in un'ora. In un'ora sono... Capite, in un'ora sono 1500 euro. È vero, 1500 euro, ora me l'ha detto. Grazie. Tanto, 1500 euro all'ora. Insomma, è una barca di una barca di soldi, porca miseria. E se ne vede consumano queste di tutte, no? Sì, Luigi, io non lo sapevo, 160 metri. L'altra mi pare che sia 50-60 metri, più bassa di Nulvi, quindi Nulvi è 470 dal livello del mare, quella potrebbe essere intorno ai 410-420 metri, perciò immaginate 2 metri che attraversa cui vuoi stare anche a portare il materiale, ci vorrebbe giorni e giorni, capito, perché puoi agganciare il carrello e tirare col fuori strada, ma cazzo. E invece hanno deciso di portarli con l'elicottero, le paranno già tutte pronte e portare tutto il materiale lì. E poi una volta il materiale lì, allora si sale con il fuori strada a voti, quindi fai prima, capito? Kappa, è una cosa un bel bestiale comunque. Ho sentito dire, io non ho visto carte, però se voglio già le controllo. Mi pare che quell'elicottero costi all'azienda madre, quindi non né a noi e né a questi qua, ma bensì al ministero, 8.000 euro, 7.000 euro di ragione. Mi auguri, esce una barca di denaro. Lì è tutto ancora del Ministero di Grazia e Giustizia, perlomeno i lavori che si stanno facendo appartengono ancora al Ministero. E poi c'è anche l'Interparco, quindi ancora, vabbè. Ancora c'è il commissario, non so se hanno fatto il presidente nuovo, non caso di Gesù Cristo, altro da sapere lì. Non si comprende qua pure miglioro. Cadi di picche, cadi di cori, io guarda, manco per l'anticamera, ma è passa da quando sono lì. C'ho la mia. Il mio programma da seguire, che mi dà l'ingegnere, è quello che devo seguire io, a me, che non mi dà anche uno mica, ma quello non sono problemi suoi. Quando sarà il momento faremo anche quello. Per il momento stiamo facendo questo, poi il resto si vedrà dopo, quando ha qualcosa da dire, la dica all'ingegnere, non a me, io eseguo solo gli ordini, tutti usciscono, non ne arrivi né uno, non ne arrivi né uno. Cambia una cosa, cassare l'altra, adesso si hanno bruciato questa pompa per il turno tratta, se io sono andato venerdì, ho sbarcato venerdì, poi sono rimasto 3 giorni anzi, e ora tutto a posto, qualcuno ha chiuso qualche sala cinesca, la pompa tirata a vuoto, e colì che è andata in termico, non so se si è bruciata, comunque mi hanno telefonato in termico, perciò domani volto l'elettricista e vediamo. Si è bruciato la pompa e trovo la sala cinesca chiusa, qualcuno prende i colpi domani. Si parla con i simani in curva, invece di fare così non so su. Luca è. Oh Claudio, che ne approfitto a salutarvi, che me ne vado a cenare, che io domani mattina devo alzare alle 4. Io saluto, vi saluto perché me ne vado a stare presto domani mattina. Ciao Claudio, ciao Falchetto, Luca se ne ascolto. Dai, ce la riascoltiamo al limite domani sera. Quella roba l'ho messa dentro in garage e non ci sono problemi. È come che ce l'abbia a casa tua, tu lo sai, Claudio. Quando ti viene bene te la porti via. Va bene, aspetto in salute e non riprendo più. Dai, vai Claudio che me ne vado a cenare. Riprendi tu, Claudio, e aspetto i saluti e vado e chiudo. Allora Gigi, io ti saluto, un abbraccio e ci sentiamo. Se ce la faccio, ti telefono e passo. Sabato lo faccio apposta, mi paghi il caffè e sabato vengo sabato. Vai Anto per i saluti a Gigi. Cappa, saluto un Gigino, buona carica, con tutto e ce la riascoltiamo domani, cappa cappa. Positivo, dai, si prende a Falchetto, tanto Falchetto cioè, abbiamo già preso il caffè assieme e ci prendiamo il caffè e anche la massa al caffè, non ci sono problemi, già lo sai tu Claudia. Ciao, buonanotte, io vado a cenare, ciao. Ciao Gigi, sono fretta, non ti preoccupare, ce l'avevo già pensato, ciao. Buonanotte, buon tutto e sognerò, anche io me lo vado a fare sì domani mattina, 2 ore 20, ciao. Ciao Gigi. Hai compreso tu? Ma tanto, hai compreso? Cazzo, 1.500 euro l'ora, ragazzi. Allucinato, sono rimasto a bocca aperta, non mi hai detto. spettacolare da vedere. Lo so. Cose belle. Purtroppo lì non è che puoi andare con i mezzi, ne perché ha ragione. Si conferma quello che hai detto, e con l'elicottero si risolve tante cose, è vero. Ma anche come stanno gettando sempre con l'elicottero, stanno facendo il gettito nuovo del piano di basamento in calce tutto, per poi mettere il faro nuovo. Stanno gettando tutto così. C'è la cisterna, no, quindi a fare manni, come ti chiamano i cisterni, i manni che imbraga la gru? Ho capito. Il cestello, dov'è? Il cestello si chiama lo stesso, non lo sapevo. Quello lì. La bettoniera butta tutto lì dentro, e guadagna, per esempio, quello di cielo, si te lo brucia. Scarica, e torna a caricare, ma ci mette 3 minuti a andare e tornare, cioè una cosa allucinante, velocissimo, è impressionante su Berotta. Ma poi già non l'ho visto, faremo un attimo che ti metterà vissuto. Beh, loro hanno quei tempi di capitolo, devono essere rapidi. Ma c'è un'organizzazione che fa paura, veramente. Quando è che arrivato l'altro giorno? Perché c'è anche quell'impresa che ti ho detto ieri, no? Quella di Sassari, per non fare nulla. E ha giunto a Nicola, un Gabriele Quadra, trovano questo Lumper. La piazza del vostro, la piazza è nostra, io arrivo, e ricordo solo le portare. C'è proprio un Lumper che stai portando. Oh, è andato un Lumper, sembrava una giolina. Dai, tu, che cazzo, è allucinante. C'era una potenza fuori dal normale. Questo che c'è lì, questo grigio, perché c'è uno piccolo o uno grande, perché uno fa trasporto anche passeggeri, capito? Invece l'altro fa solo merci, quindi non ha, è tutto motore. Guarda, c'è Giulino, uno è unico per il pilota, non c'è niente dentro, i comandi e il pilota seduto, il resto è tutto motore, c'è una vita grande e poi ce n'è una supplementare piccola e poi dietro la coda quella che gira in verticale, che sei, gira verticalmente a tipo cosa, come si chiama, ventilatore, quella lì. E mi ha detto il pilota che c'ha 950 cavalli a tiro, non ci capisco cosa vuol dire a tiro, ma poi dove vedi cosa vuol dire a tiro. Dovrebbe essere a palla, penso. Io però se sei così, ma io glielo chiedo, a tiro, 950 cavalli a tiro. Ha detto, no, ho capito, gli ho detto. Invece non ho capito un cazzo. lo so, loro parlano in gergo loro, diciamo, a tiro dovrebbe essere a palla, capito? A 3 palle, pensa un po' che cosa tutto trasporta, cavolo. Tu, se riesco a fare qualche foto, perché ogni volta mi frega, mi dimentico sempre. C'ho quella istantanea, una volta facciamo foto così di lavori e poi la metto nel furgone, mi dimentico, cazzo, la trovo sempre con le batterie scariche, quella è Polaroid. Ma se riesco a farla col telefonino, te la faccio vedere. Ti faccio vedere questa cosa allucinante. Mi mani da giusto, mi gioco assultato. E poi già bisogna che mattiano, cosa gioco che ricotta a me nel problema, che è successo? Niente, stanno portando il materiale su a Punta Scorda. Niente, di tu ricotta. Va bene di buonaci. Fatemi sapere la roba nostra, di tu cazzo, così a mettere ancora i miei limiti. Almeno me. Beh sì, sono dei vostri, diavolo. Sono fatti, progettati apposta per questo tipo di lavori qua, capito? Noi vediamo le cose così, penso a voi, quelle grosse città tipo Amiri, che cosa, è da paura vedere queste cose. Sì, beh, lì all'ordine del giorno, tu, perché anche quando hanno rifatto le torri gemelle per portare su il materiale, dici, fanno paura lo stesso. Hanno lavorato con gli elicotteri, ma l'America è America, e noi facevano venire a Genara, non per pensavo ci fosse tutto questo, questa cosa da fare. Non pensavo, Dio. Già ho capito che era un problema portare sul materiale, ma che mettessero a disposizione il ministero questa cosa di Barietta e di Naiaveso, non è un problema, intanto la paghiamo sempre noi, no? Ah, dice poco ma sicuro, un poco da me, un poco da te, un poco da Tizio, anche se è Bruno, e di là degli amici Luca, non si muore il problema, no? Dice che è vivo. Io quando era morto avevo visto un documentario che era, mi sembra che era in Cina, una cosa del genere, scatta, e non mi ricordo la sera, non so come ci vogliono i ponti, Gigi, però mi vedo bene. I ponti? I ponti, come li faceva? I tuoi guardiani? Ah, ma, cioè lì, ma a mettere il ponteggio, cioè a sembrare il ponteggio. Che tipo di materiale usavano per fare il ponteggio? Cane di bambù. Se li ha del cimino o lo spago usano loro. E saltavano i 70 metri, tutta a cane di bambù. Fai tu. Beh, i vecchi indigeni che vivevano nelle palafitte, piantavano tutti i vatti di piantoni di bambù. E chi c'erano i gaggi? Piantate in leva. Non so a quanti metri, ma sicuramente a fondare basso. E poi montavano, facevano la piattaforma e facevano la casa sotto, tutta in bambù. E quello è resistente, è molto resistente, ma si sa, il bambù è un ottimo materiale per fare quelle cose. Ma queste, non lo so. E poi il ponteggio ne prendeva. Allora li affiancavano i ponteggi, proprio quelli che usate voi, no? I ponteggi. Fasiani, ne ho visto una cattata, mi pare erano 10 fasce di ponteggi, quelli a 2 metri, legate con la catena, imbragate e portate via, a 10 a 10. Grazie, allucinante. E adesso ci sono anche porta a ponteggi, ci stanno 10 elementi, no? C'è il piano, metti gli elementi dentro, poi metti i ferri laterali a fianchi, capito? Imbrai e tiri, e se lo butti sopra. Infatti erano fatti così. E poi c'erano quelli a fare in lamiera, no? Che allora da noi non si tratta più, visto che si lamiera in cascio, no? Beh, quelle sono le pedane. Beh, sono ormai no. Tavole non ne usano più nessuno, sono fuori norme, capito? Adesso ci sono le pedane, vanno in casso, è la cosa più sicura. Sono le botole, quelle di altre, dove mettere la scaletta per salire, no? C'è la botola, sono lì per la botola e scappiamo su con la scaletta. Allora c'è la cosa più, diciamo, più organizzata come si deve, perché le tavole, le disgrazie sono successe parecchie con le tavole. Mi immagino quella persona di tua che tu attendi in una di 10 bottole. Io penso che mai un capo incasciato. A me non mi ricordi. No, non mi basta dentro. Dentro la bottola no, non ce l'ho vista, non ci passano. Mi muga la dogana e sicuramente sapevo il ponteggio, minimo. E da voi e che non mi addomettevo marito. Per carità, mamma mia. No, comunque li ho visti questi come stanno lavorando e cazzo, c'è un'organizzazione allucinante. Già tutto assemblato a terra con i cavi d'acciaio. E poi c'hanno quei sacchi di trasporto, quindi palline di burrette, no? Che c'hanno quattro lacci, nei quattro lati mettono il materiale dentro, poi chiudono, quello entra direttamente al gancio del vericello e tira su. Sono micidiali, quelle portano un casino di quintali, è vero, e poi hanno una resistenza proprio fatti bene, sono fatti bene. Quello allucinante. Veramente è bello, mia Luca vi piace l'elicottero. Bisogna fargli avere dal vivo. Lì è atterrato per snattolare l'elicottero in occhi. A carbonati. Non c'è una via a casa. Cos'è questo rumore? È elicottero. Non c'è atterrare l'elicottero qua a campo sportivo. È a sud, però posso provare, la posso fare il tuo elicottero a vederlo. Luca lì è. La tua gravatura. Oh, bella, faccio un bel. Tu vedi questa cosa che come cazzo fa? Io non ho idea, cioè non ho proprio idea come fa a volare. Qui è il blu, troppo bello, no? Gli aerei li ho visti, ma no, come l'elicottero, l'elicottero è il massimo, a me piace troppo. Quando con l'elicottero io. Ma come vola, ecco, è una cosa spettacolare. C'è l'elicottero, faccio immaginare lui. Tu hai visto quello dei vigili del fuoco, mi pare qua. Ma se vedi questo è completamente diverso, perché è un elicottero da trasporto, quindi è tutto motore, c'ha questo sedile dentro con la cabina piccola e c'è il pilota dentro che sale e scende, sale e scende. Ma è tutto motore, una cosa allucinante. Poi come aggancia, come fa, cioè rimane fermo, proprio stabile, con un bicchiere di caliente, tu ha tutto motore per rimanere fermo. Scende il vericino e imbraga e torna a partire. Bellissimo. No, vabbè, no, adesso non mi viene questi elicotteri un po' strani. Ho fatto uno dei carabinieri, con le vigili del fuoco, con la polizia. Però non quelli, diciamo, quelli doppia elite, non mi piace questi. E incontri così. Se non ho visto vento, vince robe, mamma mia. Tasse, tassie, tassetti. Oh, iaia. Ma questo è un elicottero come quello che hai visto tu, mi è uguale. Solo che anziché avere due posti, oppure come quello di vigile del fuoco che si apre il laterale per mettere la barella, sai, quelli degli di soccorso, eccetera. No, questo è tutto motore. Perché un elicottero normale con i bari, no? Uguale, preciso. Solo è tutto motore perché è un elicottero da trasporto. Quindi stavo dicendo Antonio poco fa, se si è sentito, ho chiesto al comandante e mi ha detto che c'ha 900 cavalli a tiro. Oh, a tiro, non so cosa è piatto gioco questo a tiro, comunque. Stiamo pensando con Antonio non siano 900 cavalli a pala. Ma a me è piatto di troppo là. Ma io non ho mai visto quelli piccoli. Ma sono raccomandato Gianni con più rum. Che sono belli, non l'ho mai visto, quelli più come telecomando, no, quelli a motore a scoppio, sono veramente uno spettacolo quelli da vedere. E diciamo che capita che ci vado, l'ho fatto l'ultima volta, adesso non mi ricordo se era lì a, come si chiama? No, lì a, non mi ricordo, c'è i cavalli qua, le riparo, faccio la torre, se non mi ricordo, dice che era, guarda, metto un, senti una pelle di torte, mi guardi, guarda, uno spettacolo, era veramente cosa bella da vedere. Beh, quelli erano il modellismo, quelli già sono belli lo stesso da vedere, ma figurati vedere quelli dal vivo proprio che ti si abbassa a 10 metri, che non puoi stare vicino perché cazzo tratta un più varone allucinante, anche se rimane una decina di metri, 20 metri, forse di più, di 10 metri, no, 20-30 metri sollevato perché deve abbassare le vericelle a agganciare, però lo vedi bene, vedi tutto, ma non ti puoi avvicinare molto perché cazzo ne va del bobo di Buer, per carità. Allora, andando, ci vedo domani, gli dico, avessi mi braga domani, no? Avessi, tanto, quando lo prende per la pancia, lo solleva, dici, allunga l'uccello. Non sapevo, è bella, adesso che avevo messo su tutti, se no mi avevo. Ma c'è, dai. Capito c'era, ho sentito Antonio e niente, comunque buona buonasera a tutti i miei sentiti, anche agli ascoltoni. Ciao Mario, ben sentito. Marietta, ben sentito, buonasera, da Claudio Spagliero, qua dalla Torre Aragonese. Io non avrei sentito inditti, allora stiamo raccontando un po' le avventure che vediamo giornalmente. No, io ci avevo avuto il trapporto aspetto, perché qui, vabbè, sono una settimana che ogni volta che esco da lavoro ne faccio un pezzo e ci avevo tutto l'impianto un po' incasinato e ho rifatto tutto quanto l'impianto nuovo, ma ormai c'è e niente, adesso mi è rimasta la cucina da fare e ho finito. Qui per il resto tutto bene, a parte gli acciacchi, diciamo così, ma già va tutto bene, va. Meglio, meglio così, Mario. Ma se metta se le vende oggi, che non fai quasi 40, sì. Vabbè, io ti prendo la lato, come sempre, come i vecchi tempi, 9 più 40. Sì, una bombarda. Vai, Bugariere, per Mario Masser, che io vado a bere un secondo solo. Ciao Mario, adesso mi ascolti, sono un portatile. Avanti Mario. Perché non ti ascolto, perché sono diventato sordo. Ciao Luca, e beh, tutto a posto. Ciao malissimo Mario. Mi devo dire, lavorando, no? Allora, finito, signora di... No ragazzi, non posso andare, sono fermo. Vabbè. Vediamo un po'. Vediamo un po' cosa da fare. Avanti. Perfetto. Come mai Mario? Proprio ovviare, come mai a malattia dopo tanto? No, diciamo che sto ordinando e diciamo che se ci riesco o meno, ho quasi finito l'impianto elettrico. L'ho messo a norma, ho separato le prese dalle lampadine anche perché è un periodaccio che mi stanno arrivando bollette da capogiro e così che dove c'avevo la radio non c'avevo corrente e allora niente, siccome non mi andava di spostare niente perché devo anche spostare un po' di roba per iniziare a imbiancare, così quando si va in ferie la casa diventa tutta pulita pulita e in ordine. Ci conferma, vabbè, casino, no vabbè, diciamo che qualcosina a parte ce l'ho ancora, sono sempre buona, un cordino, almeno sono bravo, no, mi accontento. Mi accontento anche del poco, ecco, poi si vedrà a settembre, buono, che cosa ne dici per Fuzza, chi si no, la cosa è grigia, vai Falco. Aia, positivo, ben sentito marito, ben sentito, portato. Perché tu già lo sai, io sono sempre nella cresta dell'onda, ogni tanto esco dalla tomba e mi faccio sentire. Va bene, l'importante è che comunque stai di mettere il tuo posto, per ordine, Mario. Altrimenti è un casino. E me ho finito anche la vetrata. Adesso ho finito quasi l'impianto elettrico, mi è rimasto solamente la cucina, perché diciamo che va un po' male perché devo smontare i pesi di massa per le prese che ci sono del frigorifero e del forno, ma poi per il resto tutto fatto e poi iniziamo a imbiancare. Sono intatto? Ci vuole, tu lo sai che quando uno è impegnato il tempo ne ha poco e deve fare le cose a a Zappoli. Ma già va bene lo stesso, dai, l'importante è che ci sia la salute che ci accompagna, e per il resto va tutto bene. Riprende Claudio. Zappoli positivo, Mario. Io guarda, ho risolto il problema. Vabbè, in Sorai sicuramente non per quest'anno, il prossimo anno sono da fare perché sono stati fatti da poco. Però tutto tappezzato, tappezzeria, senza disegni, senza niente, proprio di quella della Morella, molto molto bella, molto grossa. E basta, tanto bambini non ce ne sono più. E lo lasciamo fare andare così. Era l'idea che aveva mia suocera sempre ed è stata fatta, con le cornici in alto, e quindi i muri rimangono così. Poi al prossimo anno si faranno le volte e basta. Poi per gli impianti, vabbè, questo è l'appartamento nuovo, quindi è stato fatto già tutto a norma. Perciò io non aggiungo niente, nunca mi immagino, niente di niente proprio. È stato rifatto, diciamo, all'inizio dell'anno, quindi siamo a metà anno, perciò al prossimo anno si vedrà se ci sono qualcosa da fare. KK, vai Lugarie. Radio. Era tanti anni che voleva inserire ce l'ha fatta e sta facendo una bella cosa. Sta facendo una collezione come me e ha seguito il mio consiglio. Inutile avere giocattolini quando hai la possibilità di fare tutto con radio acquisti di vedi, perché fai tutto, non hai problemi di potenza, non hai problemi di niente. E vabbè, ognuno fa quello che vuole con la roba sua, vero Marie? Beh, ma per il positivo, me li sono sudati, non è che tu già lo sai, l'unica cosa che ho qui di regalo è quello che mi hai regalato tu, bello lì parcheggiato in mezzo, l'ho messo in mezzo ai due keyboard. E quello Mario non l'ha regalato, lo sai, provato col cuore, perché sei stato uno dei pochi che quando abbiamo trasloccato eri presente e quindi hai fatto il tuo dovere e giustamente io ti ho detto che cosa ti serviva e ti ho detto chi se voglio e chi sarai, non è problema, come l'altra persona la stessa cosa, non c'è problema per me mai. Sono contentissimo che ce l'hai tu con la bellissima radio, una grandissima radio, una radio degli anni passati che però ha fatto tanto e continuerà a fare sempre, perché 7B è una ricezione che non ce ne prende nessuno. È una bellissima radio, è una vecchia radio della IAESO, un HF decametrico che a Mario piaceva da sempre. E siccome è venuto a darmi una mano è la minima cosa, perché ha fatto tutto lui, e quando ho traslocato qua giù a via Pascoli, e quindi se l'ha meritata, perciò non è regalata a Mario, non è regalata assolutamente, te l'hai meritata come se l'ha meritata Franco e come tutte le cose che faccio sempre, quando lo merita è giusto che abbia loro e via tu. E così è, Tony, è così. Chi se lo merita è ben accetto, io stesso sono del tuo parere. È così, va bene. Ma no, poi sono anche contento che c'è una persona che tiene bene le cose, e sono troppo contento, la verità si dica. Quando è così sono più contento io che chi ce l'ha, che ha pagato. Riprende Mario. Tu già l'hai visto come li ho sistemati tutti quanti, mentre immobile. Sì, no, e guarda, sono proprio sistemati a dovere, a tocco. È così, perfetto, pulito, tutto Roger, non ce n'è per nessuno, è vero. Kappa. E adesso c'è solo l'imbarazzo della scelta, diciamo così. Ma però, diciamo che non ci sono problemi, però poi è anche bello perché uno entra e vede tutto quanto quello che c'hai, non è che non c'è niente di nascosto, è tutto regolare, non c'è nulla che ti brigi, e vado tranquillo, quando vieni mi dico, chi sarà occupato a Dizio, chi sarà occupato a Gaio, chi se mi ha dato Dizio, chi se mi ha dato Sempugno, non ci sono problemi. Io vado tranquillo, anche la notte mi vado a dormire sul misciuscio. Sì, è bello, male, ci mancherebbe altro, Mario. Ehi, Andrea, riprendi, grazie. Mario è perfetto, eh. Però Mario, adesso bisogna trovare 430, eh. Io avevo trovato la fiera di Milano, il 430 che uso spesso e lo uso in 20 metri, c'è l'antenna dei 20 metri, perché adesso ce li hai un po' tutti anche tu, però il 430, vedi, il 430 è una bella macchinetta, quella è simile al 440, però ha un ricevitore che è favoloso, ha dei filtri particolari, quelli della Collins, che sono eccezionali, non sono di quei filtri come ha il 440, quello è veramente una signora radio. E se ho tanto quello avevi trovato, no? No, mio figlio vuole comprare il 680, ma no, piano piano, man mano che entrano i soldi, compreremo anche quello e lo metteremo insieme agli altri per non essere gelosi. Piano piano qua, tanto fretta non ce n'è, mio figlio voleva più il 680, ma vedremo, adesso... Quando capita che c'è un nuovamente un po' di soldi disponibili, o piglio il 4,30 come mi stai dicendo tu, o piglio il 6,80. Ma io, perché ce li avevo 140, 6,80, ma se tu li vedi a fianco sono gemelli e precisi identici, non cambia niente. È che all'interno il 6,80 c'è la scheda dei 6,30, 50 mega e basta. Quindi per averli uguali, anche se non sono uguali, per una 140 e una 680, io preferirei molto il 430. Il 430 è molto bello da vedere. Quando con calma poi ti telefono un giorno e sarei a vedere come sono organizzato, perché questa è molto più grande dell'altra, la casa. E quindi ho proprio la mia stanza come avevo desiderato negli anni. Finalmente ci sono riuscito e Giulia mi ha fatto tutto il lavoro del banco nuovo, banco proprio da sala radio con il doppio basamento, ma una cosa spettacolare da vedere. E quindi allora adesso ci sono tutte, Mario, non ce n'è più dentro gli armadi, ormai sono tutte in fila, tutte proprio dalla alla Z. Posso avere qualche strumentino ancora dentro l'armadio, ma devo andare a cercarlo, perché per il resto è quasi 3 metri di base per 90 centimetri, ma è a due piani, tutta lineare, tutta davanti, con tutti i microfoni davanti, ma è veramente uno spettacolo. Ha fatto un lavoro alla grande, Giulio, è veramente un grande lavoro. Io ho infilato tutto in questo mobile, ho fatto le mensole all'altezza giusta in modo da recuperare spazio e li ho messi tutte dentro un mobile alto 2 metri, diciamo così, per un metro. E per adesso è pieno. Adesso vediamo, poi sotto c'è il computer, c'è il piano di lavoro e sotto ancora ci sono in massa tutti, diciamo per non creare troppo peso, ho messo il lignarone, quello grande anche se è staccato, però anche lui fa la sua figura, e poi ci sono tutti gli alimentatori, mi ne so 1, 2, 3, 4, ricchi alimentatori di so. No Mario, no. Alimentatori ho quelli di linea, ho il PS50 proprio di linea, non ne ho alimentatori, ho tutti gli alimentatori switching, gli alimentatori, non ne ho più di quella roba Mario. Ho solo alimentatori di linea, gli alimentatori Kenwood, ho tre PS50 che praticamente alimentano 12 radio, quindi 100-150 ampere. In tre alimentatori fanno linea e sono i suoi alimentatori, perché con i switching e con le potenze che usavo io vedevo che piano piano iniziavano a calare le luci dell'assorbimento del radio, e quindi e poi consultandomi con Massimiliano ho detto che chiaramente le schede vanno a esaurirsi, quindi sono alimentatori, vanno bene per baracchini di medie potenze, ma quando inizi ad avere in banda laterale 150-200 watt modulati, in più poi usi gli amplificatori, quegli alimentatori non vanno bene. Quindi quando ti capita dai sempre uno sguardo al computer che tu già batti in Kiwi, perché uno l'avevo preso da eBay nuovo dentro la scatola e mi era costato 100 euro, un alimentatore che costa una barca di soldi, di linea Kenwood PS50, perciò se ti capita prendilo immediatamente, perché sono alimentatori che ti durano un'eternità, sono ventilati, hanno il termostato direttamente collegato con la radio, quindi quando deve entrare in funzione la ventola lo vede lui, e è una tragubba, ormai è una tragubba, c'è direttamente l'attacco diretto, senza cavi di alimentazione, diretto proprio il cavo esce da dentro l'alimentatore e ha l'attacco direttamente Kenwood, quindi non hai bisogno di bananette, spinette, non c'è nessuna dispersione, eccetera. Se ti capita, controlla e prendi al volo con l'alimentatore. Io adesso ce ne ho due grossi, mi sembra che sono da 30 amperi l'uno, poi ce ne ho due di quelli piccolini per i baracchinetti, diciamo così, e poi c'ho questo qui, uno swinging, che per adesso, per la potenza che uso io per parlare qui in città, poi non è che sono sempre attaccato al baracchino. Oggi lì, come ho finito di collegare le prese, a sbagliato la gestita di Tisa di Gavè, mi sono messo lì un po' a guardare, ho sentito a voi, e sono entrato subito. E niente, no, poi io non è che uso molta potenza, io quando esco con 40, con qualche volta con 50, ma viene per i buchi, e vedo che non si siede. L'ho fatto avere io, anche quello. Sono pochi quelle radio che sono in circolazione qua a Sassari che non sono passate in mano mia. Perciò quello è già pronto per le, l'avevo già fatto preparare da QMW, quello di Chiaramonti, come lo voleva quella persona. E quindi c'ha il finale abbastanza spinto, perciò quando tu metti la portata a 30 watt e lui modula tranquillamente a 50-60, viene per i buchi, anche questo è così. Io sono fisso di portate a 30 watt, ma ho il picco modulato a 60 watt, quindi se dovessi metterlo a 50 watt ho un picco modulato a 100 e così via, a 60 va a 120, ma è molto alta la sono molto alti i watt di queste radio, soprattutto questa non è come 140, è più scalda e più pompa, no? Questo è freddo, è caldo, quando è regolato a 30 watt ti dà, mentre 140, siccome due conversioni prima di scaldare, di darti la potenza giusta del finale, deve almeno stare una mezz'oretta in funzione. Il tuo Duracell a freddo o a caldo è tu pompa sempre, non ha problemi. Ma tanto K in effetti vogliono buoni, la spesa si fa unica e buona, e in effetti così, questi ci sono purtroppo alimentatori che non servono al tubo, purtroppo così, o ti scaldano oppure ti abbassano molto la modulazione, diciamo, è un casino, però vogliono buoni e basta, non vedo da qua. Guarda che io con questo ho fatto un affare, perché mi ha dato l'alimentatore, mi ha dato due microfoni, l'MC60 e l'MC80, e un accordatore. Sì, lo so, la radio. L'MC80, l'MC60 gliel'ho preso io, gliel'ho portato io, gliel'ho comprato io proprio, ho detto fai tu, quando c'hai tutto avvisami, e così l'ho fatto con quella persona, molto seria, molto, non c'era problemi, avevo fatto tutto io, quindi pagato tutto io, gli ho telefonato, gli ho detto guarda che la tua roba è già arrivata, hai sistemato tutto sistemato, quanto ti devo dare? Tanto, è giunto, si è ritirato la roba, e mi ha lasciato la segno, no, ma ce ne fosse di quelle persone, ormai, ma stai scherzando, hai fatto un grandissimo affare, io l'avevo già preso, perché io di 4,40 ne ho avuto 6, li lavo, poi me ne pentivo, non lo riprendevo, li lavo, effettivo, non lo riprendevo, allora chi sono i civili, finito, questo rimane qua, questo c'ha tutto, come quello lì, accordatore, scusi. Il microfono è lo stesso, li avevo comprati io, anzi l'MC80 era proprio il mio. Ho fatto cambio con l'SM20, lui mi ha dato l'SM20 e gli ho dato l'MC80. Perché io ho radio ICOM e quindi non avevo il microfono ICOM, avevo tutti i doppi Kenwood. E allora abbiamo fatto un cambio, quindi quell'MC80 che hai tu è quello che avevo io. E lui mi ha dato l'SM20, capito? Tutto lì. Hai fatto veramente un affare, hai fatto veramente un affare, anche perché la radio è nuova, è usata poco e la conosco perfettamente, Mario, non ci sono problemi. Hai fatto veramente un grande affare. Allora, mi si capita che già avevo trovato un affare io. Una bella di questa radio, un bel microfono di questi, anche un MC60, un bel alimentatore da 30 ampere. E tu pigli che ci vuoi rimettere, ma non vedo la maglia, non li date più. Ehi, infatti, è quello che faremo, Prodi, quello che faremo. Guarda che il pezzo qua c'è Mario, diciamo balle, non so quali ci livelli, qualcuno ce l'aveva, si è disfatto, ripeto, ognuno fa quello che vuole, ma io non avrei mai fatto un'operazione del genere. Ma un 140 che è un due conversioni, va bene, non è come 440, ma ti dava le ultime soddisfazioni anche perché lavora a 100 watt e hai un po' tutto, quindi una sintonia continua da 0, da 50 kHz a 30 MHz in continuo, è nulla WD, praticamente canali non ce n'è per nessuno, qualsiasi tipo di frequenza, puoi fare di tutto. A un prezzo di 300 euro, un 140, 300 euro lo trovi. Compra le gente che compra gli anni 48 modificati, con questo gatto di equa, 500 euro. Infatti, non serve a nulla. E non esibi, anche io non ve la vedo. Lo accesso a casa un giorno e tu, cazzo, la farà non funziona. Come se mai la macchina funziona e a casa non funziona? Ma ti metto a zero. Vedo già Mario, ma vedete lo zinco, io lo 21, non ti dico, manco nulla, zero, molto, completamente. Cattivo, spende 500 euro, pensavo, non ha una radio solo in macchina, ma non esiste. Cioè io ragiono con la mia testa, pure ripeto, ognuno può ragionare come vuole. Certo è una bellissima radio, modificata, ma da usare solo in macchina, perché a casa con i baracchini così non si possono usare. Come siamo noi, un attaccato all'altro, vai tu, io mi muovo a modulare con l'ara 48, e cosa che ti tengo solo a te? Era voi per sbattere, a tutto bisogno. Ma lo sai, questi che qui giù con... Cioè, vabbè, non un filettante, però li prendo i colpi, con l'iPhone, facciamo questo. L'unico che mi sbatte con me è Alessandro, e basta. Gli altri in nara, San Video, oh, si sogna a sbatterarmi. La gente di Luca che era proprio fissata con questi cazzo di baracchini, che c'è un baracchino eccezionale, ne ha avuto meglio di quelli, eccetera. Ma quando ha detto voglio 140, sempre lo 140 viene in atto. Capito? Con quello lì, le MC60, me l'ha mettato la 25, poi ho finito. Hai finito, ho finito, capito? Se come capita che magari uno sa, si vuole fare le chiacchiere con l'amico oppure la compagnia, ognuno fa quello che vuole, giustamente. 3 o 4 parlano in un canale e altre 3 o 4 parlano in un altro. Non c'è problema perché nessuno deve disturbare nessuno. Invece che da maniera di spostarvi, cazzo c'è tra quello, la materia, il cazzo è trattenere lineare, trattenere guida, trattenere guida, non è così. Questa radio lavorano in quella maniera, mandano, perché mandano, chiaramente sono radio che lavorano a 50-60 watt modulati, senza un vero dubbio, se li fa lavorare, possono lavorare anche a 10 watt, a 5 watt, non c'è problema, ma è un controsenso per me, poi per gli altri non lo so. Però allo stesso tempo hanno una ricezione molto pulita, non ti disturba nessuno, anche se sia un tiro di schioppo, capito? Beh, in effetti è così. No, sono delle belle radio. Se Dio vuole, piano piano ci facciamo una stazione bella bella che io. Tanto io trovavo che arrivi ad avere una radiolina così e si arrivi tu da sempre, perché se ti piace veramente fare radio e ascoltare soprattutto hai la sintonia continua come fa Mario, che a volte va a ascoltare la rimattura, ascoltare quello, ascoltare quell'altro, poi l'FM, quindi puoi ascoltare anche la musica, puoi ascoltare anche le radio private, capito? Puoi ascoltare tutto, non è che non è. E uno dice, per me che trovi che ti dà la possibilità di non annoiarti. E quindi avere una cosa un po' più seria, ecco. Poi ce n'è baracchini molto molto belli, io ho avuto il Magnum, l'F9 eccezionale, un ottimo apparato, niente da dire, ce ne sono tanti. Ho il Superstar 7000 DX che è un po' superiore al Magnum, non ha l'eco, ma non è una cosa che a me mi è mai interessata, però la potenza regolabile è come un HF, capito? Come un HF ha un sacco di frequenze, è tutto digitale, non ha LED, è tutto digitale, ed è della fine del mondo. Ce n'è baracchini molto belli, per carità, però a quei livelli io preferisco sempre spendere 300 euro in una radio di queste usate. Avanti, Mario. A parte che è tutto un altro pianeta, e poi c'è anche il vantaggio che io mi sono accorto che quando usavo il baracchino, anche se usavo 5 watt, o perché buttavo fuori spurie, o perché quello, o perché quell'altro, c'era sempre qualcuno che veniva a lamentarsi. Da quando sto usando questa radio qui, tutto muto, tutto zitto, tutto silenzio, non anche gli danni nessuno. Hai capito qua? Allora, con questo qui, ti schiaccio, stai chiacchierando. Allora, come ti che sono in casa lui, o tu in casa mia, non la stessa cosa. Arrivo, marimo a fianco, va vedendo. No, non pigli i colpi, non pigli niente. E sei tranquillissimo, bella, silenziosa. Non ci sono problemi, riprendi qua. Ah sì, su questo non ci sono dubbi, lo sapete, io me la penso. Non voglio insinuare niente a nessuno, ma io la penso così. Io baracchini ho, quando viene tutto lo faccio vedere. C'ho dei bellissimi baracchini, molto seri, grandi, c'ho il Seas SSB, che è la fine del mondo. Non ha molti canali, ma è un barrasone allucinante, di vecchia era. Ne ho un altro, le 7000 DX, della Sempre Superstar, il più grande che hanno fatto, per la fine del mondo lo stesso. Ne ho, ma non mi fa neanche di accenderli, capito? Proprio sono lì, tutti in esposizione, con tutti i suoi microfoni, Kiltan MP3, Kiltan MP2, l'MB più 4, MB più 5, c'è un po' di tutto, però sono cose che non mi interessano, non mi interessano proprio. Io sono amante di queste radio da ragazzino, e la mia prima radio è stato lo Yaesu 757 normale, poi ho preso 757 GX2 e poi sono passato al Kenwood. Ho iniziato con 430 e sono andato avanti così. Ne ho avuto tantissime e ne ho tantissime, però sempre di questa stazza, perché altre cose inferiori non mi interessano. Ok, e anche lo Gariello si è attrezzato, esce molto bene. Era contento anche lui. Bene, Lugari. Ora il mantello ce ne è cavagliato. Ecco, se bisogna, ma tra l'altro io ce ne è cavagliato il mantello. Apro i gaggi e non è tra più. Vai, Mario. E metto Luca, lo sai come te, no? Un po' che alla televisione. messi a tutti i microfoni, li messi a Santa, all'SM20, a tutti. C'è la cuffia antisoffio, quella proprio quella palla in spugna che si mette nei microfoni. E sono anche esteticamente molto belli, sono dei microfoni proprio di chi sia cantante. Io lo so già. No, io ho il microfono però senza la protezione in spugna, come stai dicendo tu. Ma appena che mi capita l'occasione, che la busco gliela messo, anche perché lo protegge anche un po' con la polvere, dai. Dici, è molto importante per la capsula, sai che le capsule sono molto molto delicate. Ma guarda che le ho presi lì da piazza Lemicico Garibaldi, quello che vende i cosi per chitarre, balle varie. 2 euro l'uno li ho pagati, queste spugne. Ne ho preso 1, 2, 3, 4, 5, ne ho preso. Ne ho preso 5. 5 per 2, 10, 10 euro, ne ho preso 5. Sono belle grandi, entrano proprio a misura nei microfoni, li riserva e soprattutto per la polvere, poi ha una funzione molto particolare. Si chiama proprio cuffia antisoffio perché non si sente il respiro, capito? L'alito, eccetera, e quando respiri in contemporanea parlando, no? Cosa che normalmente da te si sente. E quindi è molto importante anche quello lì, la modulazione rimane molto più chiara con le tonalità che il microfono dà e quindi non senti queste cose supplementari. KK, Valorianto, non mai ne dici, allora te ne manco grazie, va? No, ancora no, non mi sto addormentando, però siamo lì vicino, no, così, anche io adesso se mi capita vado me le compro, e così lo ripara, e bene, è una buona idea quella, in effetti te lo ripara dalla polvere, da tutte tante cose, diciamo, anche per il fatto che hanno moduli, non debba sentire il respiro, questa roba qua, sono ultime. Sì, lo puoi mettere anche l'MV+5, non c'è problema. Io l'avevo messo anche al Tane più 3 se per quello, non c'è problema, sono proprio fatte apposta, capito? Prendi quelle, più o meno vedi la misura della capsula microfonica, e prendi quelle medie, perché sono quelle piccole, le medie, e poi quelle extra large che sono dei microfoni di chi ti intervista, nemico si manda, ma anche queste già sono grandi, perché i microfoni del M60 è abbastanza grande come microfono. Ok, guarda Mario, già le trovi intanto lì da quello di che c'è l'Emicico Garibaldi. Dai, un altro passaggio e poi ci andiamo a Nanna, ci siamo domani, grazie di cantare un buco a tutti quanti. Anche tu Mario ti devi alzare presto. Sì, non posso presto, vediamo alle 7:30, così che mi inizi a preparare verso lì, sì. Adesso domani c'è la corrente, magari mi alzo anche prima, accendo il baracchino, se c'è qualche amico in partenza, in arrivo. Perché adesso sono adattato senza sentire a Bulldoze, senza sentire quasi tutti gli amici, a Pierpaolo, a Bombolo e tutta quanta quella gente, non la sentivo più perché ci avevo le piazze incasinato. E così che niente, adesso da domani, poco, prima di uscire al lavoro, accendo così vedo se c'è qualcuno, tipo parchetto quando va a prepararsi e tutte quelle belle cose. A me già la mette il Ramazan, io dentro me. Dopo cena, adesso le 8:30, così. Fai due chiacchiere con Falchetto, con Luca, se entri tu qua, noi siamo qua. No, ma non eccedo la mattina perché esco molto presto. Io mi alzo alle 5:30 e allora a volte alle 6:15 sto già uscendo. Adesso in questi giorni sono un po' più tranquillo, ma la settimana scorsa era una cosa allucinante. però anche domani alle 7 meno 10 sto uscendo di casa, quindi mi invece alle 6 prendo il caffè e poi alle 8 devo essere giù a Porto Torres, devo andare a vaccinare, devo andare a vaccinare, se non mi dà capire un draghetto. Va bene signori, io mi approfitto che ho il mic in mano per augurarvi a voi tutti, a te Antonio, a Luca e a Mario e naturalmente a Alessia e a Budopiole che sono all'ascolto e tutti coloro che sono all'ascolto. Un abbraccio a tutti, una buona notte e ci sentiamo domani. Antonio, noi ci vediamo domani al caffè, ricordati dammi il numero di telefono, non metti a dire però se non me la metto io. E ci aggiorniamo domani sera poi quando rientro dalla ginata, vai. Ciao Mario di nuovo, grazie per essere entrato, ciao a tutti, cordiali saluti, buonanotte anche allo Sparviero. Ne prendi tu Mario, fai girare, ascolta il finale e poi chiudo. Ciao ca, buonanotte, buon tutto. Salutino al cuore, ce la rilanciamo alle prossime là. Mi ha fatto piacere sentirti, sto portando. Io approfitto per chiudere, vi saluto a tutti, ciao Claudio, e ci vediamo domani a prendere caffè, ciao Mario, ben ascoltato anche a te, e ce ne ascoltiamo tutte le migliori, ciao Luca e ciao anche ad eventuali ascoltatori. Cappa, non ce la dai, quelle ti da parte mia, buonanotte a tutti e ce ne ascoltiamo tutte le migliori, ciao ciao. Ciao a tu, buonanotte, buon tutto le prossime, ma va, buon lavoro per domani, se noi ci sentiamo e se la riascoltiamo alle prossime. Ciao ciao. Ciao ciao ciao ciao ciao a tutti. Ciao Mario, ciao Antonio, a domani, buonanotte a tutti.